sulle posizioni, diciamo, riguardanti l'università, siamo tutti quanti d'accordo, quindi diciamo CGL, CISL, UIL, SNALS, ANDU, APU, ADU, Associazione Dottorandi Italiani, Coordinamento Nazionale dei Ricercatori, tutte queste sigle, insomma, che sono la totalità, escludendo il CIPUR e l'USPUR, sono qui presenti e hanno organizzato questo sit-in, queste 24 ore per l'università, che andranno avanti da adesso fino a domani all'ora di pranzo. E cominceremo con un'assemblea, dibattito, poi dopo ci saranno delle iniziative che potranno coinvolgere i più piccoli, cioè si faranno delle lezioni rivolte ai bambini, sulla fisica, sulla chimica, con dei piccoli esperimenti, cose particolari, ci sarà della musica, se faranno delle lezioni particolari per i più grandi su argomenti specifici, poi ci sarà un dibattito questa sera a cui parteciperà anche Umberto Guidoni, l'astronauta che recentemente è stato eletto al Parlamento Europeo. Questo disegno di legge delega mira a togliere di mezzo la figura del ricercatore come figura a tempo indeterminato all'interno dell'università. Quindi il ricercatore cessa di essere una figura incardinata all'interno delle università, ma diventa un ruolo precario, cioè il ricercatore diventerà una persona che ha un contratto a termine, sicuramente a progetto, e al terminato il quale sarà disoccupato. Quindi diciamo che le garanzie diminuiscono, quindi la carriera universitaria diventa sempre meno appetibile, e questo non farà altro che acuire quella fuga dei cervelli che è già in atto in modo massiccio qui da noi. Quello che non va bene è che questo disegno di legge non fa altro che sottrarre dei fondi, i fondi alla ricerca, e li dirotta in una parte diversa dall'università, per esempio all'Istituto Italiano di Tecnologia, che è una scatola vuota, senza finalità precise, un progetto molto fumoso, scuro, e non si capisce bene tutta questa grande quantità di soldi a che cosa dovrebbe servire, mentre l'università italiana ha una sua tradizione e la ricerca italiana è ben conosciuta all'estero e verrà assolutamente penalizzata da queste scelte. Poi il fatto che si vuol privilegiare all'interno delle università l'idea di università vicina alle professioni, quindi sostanzialmente deve essere un'università che prepara le persone alle professioni, quindi è più vicina alle esigenze delle facoltà economico-giuridiche, e penalizza invece quelle scientifiche. Poi con la precarizzazione si tende a dividere la docenza dalla ricerca. Si è sempre detto che non si può fare buona didattica senza far buona ricerca, e viceversa. In questo caso invece avremo proprio una suddivisione dei ruoli, ci saranno i giovani che faranno ricerca a progetto e quelli incardinati nell'università che si occuperanno soltanto di fare docenza, quindi l'università sarà trasformata in un super liceo, e poi dopo i centri di eccellenza, come al solito, si faranno da qualche altra parte, magari controllati da qualcuno.